tuo Parenzo sembrate a volte i deregi evoluti, avete un enorme sarchiappone lì come Walter Chiari ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Non ci voglio stare più in questa città di merda. E quelli come Parenzo dovrebbero andare tutti in Siberia. E grazie alla gente come questo cretino che c'è a fianco, che l'Italia sta andando sempre di più nella melma. Non ha diritto a esistere, perché è cretino. Signori sudamericani colpiscono con un macete, un capotreno e un altro controllore, due signori impiegati, lavoratori alle Ferrovie Nord di Milano, e il governatore della Lombardia Maroni dice che bisogna mettere i militari e la polizia sui treni e nel caso bisogna anche sparare. Ora io dico subito a Maroni che va benissimo tutto, pare che questo signore colpito al braccio non lo perderà il braccio, meno male, per l'intervento dei medici bravissimi, però la polizia è autorizzata a sparare e i poliziotti, le forze dell'ordine, i carabinieri sono autorizzati a sparare anche adesso, cioè non è che se vedono un reato ed è il caso di sparare possono sparare anche adesso, non è che Maroni dice sparino, allora quelli sparano, sono autorizzati a sparare secondo le norme che ci sono. Punto e basta. Cioè, se vedi uno che sta dando un colpo di macete, se ci fosse stato un militare, no? Un carabiniere, un poliziotto, sarebbe un finanziere, sarebbe intervenuto, magari avrebbe anche sparato. Sì, ma Maroni pensa di governare il Texas, capito? No, ma va Texas. Bene tutto, fa di dire ci vuole più polizia. Poi più la polizia sui treni, per fortuna, ci già si chiama Polfer. Ma no, ma forse uno Maroni può pure dire, può anche dire ci vuole più polizia sui treni. Però d'accordo, non si può evitare il fatto che ci siano due pazzi di una gang latina sudamericana che sono talmente cretini, sono talmente criminali da portarsi dietro un macete. Adesso oggettivamente non si può evitare, non è che ogni giorno c'è gente col macete in mano che ferisce un capotreno no, nelle ferrovie italiane, non esiste una cosa del genere. Questi qua sono stati per fortuna identificati, fermati, non questo non perderà il braccio, ma la polizia che spara, ma io voglio che spari sempre la polizia quando è il caso, ma non perché lo dice Maroni. Ma è legittima difesa, se uno mi aggredisce a colpi di macete cosa faccio? Porgo l'altro braccio o l'altra guancia, voglio qualcuno che impedisca questo e se è necessario sparare deve sparare, non c'è dubbio. Polemica tra Salvini e il governatore della Toscana Rossi, sentite, molto forte. A me piacerebbe prendere il treno senza rischiare la scabbia o senza beccare degli immigrati che vanno in giro col macete nello zainetto e se un capotreno gli chiede il biglietto gli staccano il braccio col macete, perché non penso che sia proprio. Io vorrei che lei mi portasse l'esempio di un cittadino italiano che è montato su un treno e che ha contratto la scabbia. Vorrei che mi portasse questo esempio. Io so di molte scuole nelle quali i pidocchi saltano dalla testa a un'altra. È geniale. Sempre sono se costui fa il governatore che vengono dalle teste di immigrati. Bisogna aspettare che lei fa razzismo etnico in questo senso. Lei ma è lei un razzista problema, etnico. Però, eh. Il razzista etnico Salvini, secondo Rossi, ovviamente. E la scabbia però è un problema serio. Molti dicevano no, non arriveranno mai queste malattie, eccetera, eccetera, non arriveranno mai. Invece sono arrivate. Sono arrivate soprattutto per una cosa incredibile. Qui abbiamo centinaia di immigrati accatastati alle stazioni italiane, alla stazione di Milano, alla stazione di Roma, per una colpa gravissima, gravissima di chi organizza queste cose qui, perché arrivano i profughi, e già abbiamo discusso mille volte, arrivano, non arrivano, ma chi li ha fatti arrivare alla stazione di Milano? Chi li ha fatti ammassare? Il ministro degli interni, il signor Alfano, secondo me, per questa organizzazione disastrosa, vergognosa, dei profughi che arrivano alla stazione di Milano e sono accatastati. Giustamente leggevo oggi un'intervista del direttore di uno degli alberghi che stanno sulla piazza della stazione centrale di Milano, credo che sia l'Hotel Gallia, che diceva: scusate, ma questa qua dovrebbe essere la porta d'ingresso anche per l'Expo, la porta d'ingresso per Rita. Arrivano un sacco di persone e che cos'è che succede? Che uno apre le finestre dell'albergo e vede una marea di profughi sotto. Cioè, ma dico, ma stiamo scherzando? Io non ho nulla contro questi profughi, è gente disperata. Ma come le organizzate le cose in un paese? Ma portatele con i tendoni fuori Milano, portatele con i tendoni dentro le caserme inutilizzate, fate qualcosa, dateli da mangiare, ma non alla stazione, alla stazione centrale. Ma perché non si dimette nessuno per questa follia? Si dovrebbero dimettere i primi responsabili del fatto di aver fatto arrivare questi qua alla stazione. Allora, succede in questo paese che un signore che si chiama Gino Paoli, per passare ad un altro argomento, viene invitato, non so in quale contesto, credo che fosse a Genova all'università, no, non è all'università, adesso poi ve lo dico, sino alla Camera di Commercio di Genova. La Camera di Commercio di Genova dice la sua sulle tasse, contro le gabelle, l'Italia, le tasse in Italia sono figlie delle gabelle che il principe, il duca, il conte, il marchese. Se pagassi il suo debito con l'erario. Io dico, va bene tutto, ha anche ragione in parte, l'Italia è il paese delle gabelle, ha perfettamente ragione il signor Gino Paoli, fa bene a dirlo. Però forse non è il caso, non è il momento. Risolva i suoi problemi con la Svizzera, sicuramente non ha niente a che fare con l'evasione fiscale, risolverà tutto, chiarirà tutto. Poi non è che ci può lui venire a dare lezioni sulle tasse in Italia, il signor Gino Paoli. No. Si sente molto male Gino Paoli, non ve lo posso far ascoltare purtroppo. Le tasse in Italia sono figlie di gabelle dei nobili. Ho capito, amico mio, risolvi il tuo problema con la Svizzera, poi parli di tasse, hai pienamente ragione. Siamo tutti rassicurati dal fatto che Antonio Razzi non lascerà Forza Italia. È stato inserito l'amico senatore tra quelli che potevano abbandonare Berlusconi per andare con Verdini, i neoresponsabili, eccetera, eccetera. Questa mattina da Belpietro dice: Berlusconi è un grande amico, non lo abbandonerò. Il presidente Berlusconi è un grande amico e i grandi amici non si abbandonano mai. Finalmente posso sorridere e stare felice. Il mio cuore è felice. Perciò quando uno ha la felicità, come moglie e marito che vivono felici, io penso che non si abbandonano mai. Allora, abbiamo con noi Viviana Beccalossi, che è assessore alla Regione Lombardia al territorio. Buonasera. Buonasera. Come andiamo? Molto bene, grazie. Voi? No, ma non c'è male, combattiamo. Senta, belli agguerriti. Molto agguerriti. La nostra fatina bionda. Come agguerriti come lei, d'altra parte. Appunto, dunque fatina lo dica qualcun'altra. Capito, non le piace la parola fatina, no, Parenzo? Era per dire la dolcissima. Ma perché la chiami fatina bionda? Fatina non ho capito. Bionda, ma fatina è un corno, uno dovrebbe dire. Fatina lo dita la Boschi, non a me. Beh, appunto, c'ha ragione la signora Beccalossi. Cioè, fatina è una, dà l'idea di una, no, di una persona che non sa dove sta, in realtà. No, un po' fatina bionda, fatina. Ma non è fatina, dai, su. Pensa di risolvere i problemi. Non vestivo da fata turchina neanche a carnevale quando ero piccola. Pensa di da cosa si vestiva, da Sandokan. Da squo indiana. Da squo indiana. Da squo indiana. Io, squo. Che fare con questa storia del macete? Bisogna sparare? Che bisognerebbe fare? Ma è un caso di cronaca che può succedere oppure no? No, non può succedere a me, ha ricordato molto il famoso Cabobo, che una mattina si è alzato e con il macete è andato a seminare morte e disperazione per Milano. Beh, era un po' diverso, quello era un matto, questi due sempre matti sono. Che sarà matto è tutto da vedere, sta di fatto che siccome proprio oggi in regione Lombardia si è tenuta la settima conferenza mondiale dei paesi latinoamericani e c'era il ministro degli esteri del San Salvador, io gli avrei dati dietro questi disgraziati, anche perché in giunta questo pomeriggio magari sono italiani questi, prego, magari sono italiani questi, sono del San Salvador, sono italiani, nel senso magari sono di seconda generazione, sono di passaporto italiano, A me è bastato il racconto del presidente Maroni che stamattina è andato a far visita a questo poveraccio, a casa una moglie e una bambina di 5 mesi, disperata la moglie, si è accapponata alla pelle. Ma scusi, ma un italiano non può fare una cosa del genere? Ma per adesso io ho letto solo di stranieri. Cioè i macete in giro lo fanno solo gli stranieri? Lo possono fare tutti evidentemente, stiamo commentando quello di oggi se non sbaglio. Sono sudamericani. Ma che farebbe, farebbe lei a questo? A questo signore cosa qua? Farei a qui? Beh, la prima cosa che mi verrebbe in mente è la legge del taglione. Hai tagliato un braccio, te lo taglio io. Siccome non si può fare paese, lo manderei nel suo paese dove sono sicura. Un assessore che invoca la legge del taglione. Interessante. Pazienza, guardi, siccome non si può fare, ho già detto. Purtroppo, lei dice, purtroppo. Ma anche quello che un assessore lo pensi, capito? Non si può fare, e allora lo manderei nel suo paese dove sono sicura che troverà una giustizia molto ferma. Ma già il fatto solo che lei lo pensi da assessore, ma beh, perché già questo mi fa accaponare la pelle. Cittadini normali? Allora, la signora Beccalossi dice, sarebbe il caso, in Italia non si può fare, che no, siccome... No, ho detto che sarebbe il caso, ho detto che la prima cosa che mi è venuta appunto, è quella, siccome non si può fare, purtroppo, può dice fare, lei, purtroppo. Io mi auguro che innanzitutto venga fatta giustizia sarebbe bello che andasse nel suo paese a scontare la pena, perché sono assolutamente convinta che nel suo paese troverebbe pane per i suoi denti, qua siamo tutti un po' troppo tolleranti. Cioè vanno alzate. Ma lei è a favore della pena di morte? Assolutamente no. Traffico, torniamo subito. Le strade in diretta saranno anche utili. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico no. Ma sono una boiata pazzesca. Traffico no. Fate qualcosa, vi prego. La Zanzara. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Allora, abbiamo omesso di dire, caro Parenzo, che la notizia del giorno in realtà non è questa qua, sì, è importante, eccetera, ma è l'assoluzione, e vorrei fare un applauso a questa corte francese, anche se certamente il peso del personaggio ha avuto la sua influenza. Applausi alla corte francese, a Lilla, che ha assolto Dominique Strauss-Kahn dall'accusa di istigazione alla prostituzione. Allora, ma vi pare possibile che uno non possa procurarsi, perché poi non ci credo che non sapeva che erano troie queste qua, non possa procurarsi delle prostitute liberamente ed essere invece costretto ad andare in tribunale? Ma dai, su ragazzi, istigazione alla prostituzione, ma di che parliamo? Questo qua semplicemente si faceva portare delle signorine di cui aveva addirittura, Parenzo, bisogno prima di andare alla riunione del Fondo Monetario Internazionale. Così dicono, aveva bisogno per rilassarsi prima di andare alle importantissime anche per riunioni, concentrarsi meglio sui numeri del Fondo Monetario Internazionale, su come salvare la Grecia ad esempio. E certo, aveva bisogno, come dire, di una visitina. Questo dicono le cronache. Lei ha paura della scabbia, signora Beccalossi? Sì, anche perché quando mesi fa ho denunciato il fatto che avrebbero portato nel nostro paese queste malattie, mi prendevano per pazza. Oggi, e che bisogna fare secondo lei? Questa mattina tre medici mandati da Regione Lombardia in stazione centrale hanno visitato 60 di questi profughi, di cui 30 hanno la scabbia e uno la malaria. Sarebbe la porta della stazione centrale, bellissima tra l'altro. Milano sarebbe la porta dell'Italia sull'Expo, nella città più bella d'Italia, e un turista arriva, nella migliore delle ipotesi vede la città accampata, una stazione che ormai è diventata presa. Nella peggiore lei dice si prende la malattia. Prende la scabbia. Vabbè, non è che la scabbia si passa così. Perché non proponete qualcosa tipo caserme a disposizione anziché metterci a sbraitare? In questo momento, mentre noi stiamo chiacchierando, è in corso il tavolo provinciale della sicurezza presieduto dal prefetto di Milano, dove noi come Regione Lombardia diremo no alla richiesta del Comune di Milano di mettere le tende in stazione. Ma nessuna perché tende in stazione. Secondo voi a Milano è normale che si mettano le tende in stazione centrale? No. Pisa Pia chiede di mettere le tende. Vabbè, ma in le porteranno fuori centrale. Queste tende, dai. Senta, ma lei è stata rinviata a giudizio perché per quella famosa frase su Romeno, là, non mi spiace io che affronterò il processo, io non posso che dire che mi dispiace che sia morto questo ragazzo, perché poi alla fine si è rivelato che non avesse rubato l'auto come invece le prime agenzie dicevano. Appunto. Ma ricordo le prime agenzie questo Appunto. Dicevano, ma ricordo che sono morti due bambini, uno di 5 e uno di 11 anni. Sono morti due bambini, uno di Però lei scrisse non mi dispiace affatto che questo romeno ubriaco assassino sia morto, anzi, no? Quindi no, per questo lei è stata rinviata a giudizio. Guardi, io non ho nessun problema. Affronterò il processo con molta serenità. Te credo. Ma proprio con molta serenità. Bene che venga il processo, perché non è che uno si metta a commentare tutti i fatti di cronaca. Vabbè, ma il processo mi sembra una perdita di tempo, francamente. Oggettivamente, qual è diffamazione nei confronti di chi? Di questo qua? Direi. È un pensiero, poi vedremo se è diffamazione. Vedremo. Non è un pensiero per i poveri bambini. Perché ovviamente chiunque ha. No, poi anche perché era emerso che questo qua poi non aveva fatto Tra uso di alcol. Vedremo. Piccolo dettaglio. Processo, guardate, è in corso, prima di parlare, è in corso un altro processo ben più importante. Qual in è? Cui si sta cercando di capire cosa è successo. La certezza oggi e lei aveva è che questa già la sentenza persona in mano. Ha invaso la corsia e ha provocato un incidente frontale in cui due bambini sono morti. Certo, va bene? Purtroppo. Senta, ma quando uno dice cose. Sparare, come ha detto Maroni, scusi, ma ha fatto Maroni, bene. Ma già sparano. Nei civilissimi Stati Uniti, siccome non è che ci facciamo sempre i fighi e citiamo gli Stati Uniti quando ci fa comodo, ho capito, per ma i già, di qua. Ma negli Stati Uniti, se ti fermano anche solo per vedere se tu la cintura di sicurezza allacciata o meno. Se per caso commetti un gesto sbagliato, tipo mettere la mano in tasca o dare... Sparano, va bene. Il poliziotto può sparare e nessuno può dire niente. Io non so se questo è Beh, giusto. Nessuno può dire ma niente. Credo che certamente non è giusto che in Italia i poliziotti... Per Scusi, 1200, ma già possono sparare adesso? Si fanno un culo così per arrestare gente che mentre loro stanno verbalizzando l'arresto sono già fuori. Ma già adesso si può sparare? Quindi sono favorevole al fatto che i poliziotti in Italia possono sparare. Sì, ma, quando, ma è già così. Ma è già così. Quando Maroni, così. Ma quando Maroni ma dice... cosa pensa di governare? L'Ohio o la Lombardia? Quando Maroni dice... La Lombardia dove purtroppo c'è un tasso di criminalità E che bisogna fare? Leggi speciali, leggi speciali per la Lombardia? Non ho capito. No, non si possono fare leggi speciali, però si dovrebbe dare più potere ai poliziotti che oggi come oggi sono di fatto combattono a mani nude contro una criminalità sempre cioè perché più non possono sparare se vedono uno col machete in mano possono sparare tranquillamente certo. Non succede nulla questo è il punto fondamentale. Che significa poliziotti e militari pronti a sparare? Niente. Già adesso pronti a sparare in caso di pericolo ma già oggi adesso possono sparare non possono sparare ma allora cambiate le leggi nazionali perché là bisogna cambiare io le leggi purtroppo non siedo in Parlamento ma, no, ma quando, dire... quando lo ero le ho fatte sono ma state puntualmente dire adesso, bocciate. Dire adesso militari e polizia pronti a sparare non significa nulla, adesso io lo dico per carità, io vorrei poliziotti e militari in ogni punto di Milano, in ogni punto dell'Italia, il punto è diverso. Ma il fatto che da che governa il centro-sinistra sono spariti, ma non erano vero, con il governo Berlusconi. Va bene, grazie, a presto, ci sentiamo dopo. 800 24 00 24. Senti, ti devo mandare a fanculo subito prima che incomincio a parlare, perché allora, ti mando a fanculo, ciao Beppe, ok? Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. La Zanzara. Salve, sono in linea con i due simpatici stronzi lì Cruciani e quell'altro lì come cavolo si chiama Parenzala. Ciao Cruciani, buona giornata, ti voglio bene, ciao. Allora ragazzi, non dico niente, però è successo che a Torino, tanto per parlare sempre di immigrati, a Torino una disabile è stata stuprata da tre immigrati. Ora, per carità, anche gli italiani stuprano, non ci sono solo gli immigrati, eccetera, eccetera. Però tra questi immigrati, uno è somalo, un profugo. Un altro è in Ghana, uno del Ghana, che è in Italia perché ha fatto richiesta di asilo ed è in attesa della risposta. Dal Ghana, richiesta di asilo in attesa di risposta. Un altro invece è della Nigeria, uno di questi che hanno stuprato una ragazza disabile a Torino, dalla Nigeria, ed è in attesa, anzi no, c'è un provvedimento di espulsione di questo tizio da un anno, Ora dico, va bene tutto, ma perché uno ha un provvedimento di espulsione e non se ne va subito a fare in culo? Questa è la risposta che i cittadini attendono. Adesso, al di là dello stupro, questo poi casualmente ha stuprato una persona. Erano tre. No, ma non è, vabbè, vai a raccontare a quella famiglia. No, ma io figurati se dico, allora, per un caso terribile come questo. Ma ho capito, ma possibile, ma questo qua è stato, c'è per fortuna un provvedimento di espulsione. Questo non solo è libero per un anno di vagare per l'Italia, poi così, perché gli prende il raptus, a un certo punto stupra una ragazza disabile insieme ad altri due. Uno del Ghana, anche lui in attesa di asilo, in attesa risponde. È una cosa terribile, la porcheria, che è ovvio, su. Ma chi può difendere una Ma perché non c'è il governo di questa roba qui? Non c'è, ci sono troppe leggi, non è possibile che tu richiedi asilo e ancora dopo un anno non hai una risposta. Non è possibile che non puoi richiedere asilo se hai commesso dei crimini. Ma no, ma quello prima è successo che ha chiesto asilo. Io ti sto dicendo. Fatto sta che se uno poi commette un crimine come questo, la richiesta di asilo immediatamente viene stracciata, no? Sì, ma spero, ma che ne sai? In Italia tutto è possibile, cioè, che ne sai che è così? Dai, su. Oh, senti che dice la Lussana, signora Lussana della Lega. La Lega non ha mai usato l'immigrazione nelle campagne elettorali. Senti, senti. L'immigrazione per la Lega Nord non è mai stato un tema da dibattere in campagna elettorale. Basta leggere la storia della Lega Nord attraverso i suoi manifesti. Veramente da ridere, sentite quest'altra della Santanchè. Santanchè su Berlusconi. Le risulta che Berlusconi abbia mai rubato una lira agli italiani? Popolo, questo è il popolo di una parte. Ora va benissimo, per carità, Berlusconi è ricco di suo, però c'è anche una sentenza per frode fiscale, vabbè, ma lasciamo perdere. Però la frase è bellissima e anche la risata successiva. Risentiamolo un attimo. Santanchè, Berlusconi non ha mai rubato un euro agli italiani. Mi risulta che Berlusconi abbia mai rubato una lira agli italiani? C'era un signore rom, un ragazzo, un tale Miguel, il quale rimproverava la Santanchè perché non si dice zingari. Senti, amico mio rom, noi quando diciamo zingari non è in senso dispregiativo, cioè si può chiamare con semplicità zingari, rom, sinti, camminanti, come ti pare. Adesso non mi pare sia il caso di fare una polemica sul nome, no? Mi fa piacere anche perché è la prima volta che incontro uno zingaro integrato, quindi mi fa piacere. Intanto una cosa, zingaro per favore, dato che è una rappresentante dello Stato e dovrebbe rispettare le leggi, lo zingaro non esiste il nomade, io faccio parte del popolo romani, un popolo che proviene dall'India, esistono i sinti e i rom, siamo un popolo, non siamo, il zingaro è dispregiativo, a lei la posso chiamare mafiosa, la posso chiamare mafiosa tutta la sera, e io non sono zingaro, come non è zingaro nessun rom in Italia e nel mondo. Non esistono gli zingari. E intanto il padre del rom che ha investito quella signora filippina, quella colf filippina, provocando il ferimento insieme ad altri con la macchina, dice: nessuno di noi ha la patente. Perché doveva guidare suo figlio che era minorenne? Non poteva guidare Samuel che era maggiorenne? Perché avete fatto guidare Enzo lì? Perché lui dietro, no? Ma non poteva guidare lui, dico. Perché lui la macchina non è. Non ce l'ho nessuno fratelli patente, nemmeno io, perché io bevevo. Questo c'è intestato 24 macchine e non c'è la patente, ma te rendi conto o no? Cioè, ti rendi conto o no? Perché il motivo vero per cui la gente è avvelenata, e tutti, anche i più, come dire, quelli più acculturati e quelli meno acculturati, con gli zingari, con i rom, eccetera, è che c'è un senso di impunità diffuso, e questo è l'elemento principale. Perché, per esempio, le persone non se la prendono o non sono avvelenati, che ne so, con gli indiani o con quelli che vengono dal Bangladesh? Non ce l'hanno con quelli che vengono dal Bangladesh, perché quelli che vengono dal Bangladesh si fanno un mazzo così, aprono i negozi che restano aperti fino a mezzanotte, a luna, e sono gente che più o meno si integra, certo restano tra di loro, ma comunque lavorano come pazzi, lavorano come, si direbbe una volta, come negri, no? E questo è il punto fondamentale. Giorgio d'Aosta, vai, 800 24 00 24, vai. Vorrei chiedere semplicemente a Parenzo cosa ne pensa di Cameron adesso. Se lo, ma togli l'auricolare, anche... hai l'auricolare? Sì, chiedo, scusa. Togli l'auricolare, grazie Giorgio, vai. Sì, volevo chiedere semplicemente a Parenzo cosa ne pensa di Cameron, visto che a questo punto pensa proprio come Salvini, credo. Ma soprattutto vorrei chiedere se Parenzo viaggerebbe sullo stesso vagone dove hanno viaggiato quei poveri immigrati che hanno la scabbia, per essere realisti proprio. Sì, adesso io lo chiamo, che purtroppo è caduta la linea. Un attimo solo, resti lì. Marco da Pisa, Marco. Pronto, Cruciani. Dimmi, Marco, dimmi. Ci sono? Ascolta, dimmi, io dimmi. Volevo dire semplicemente una cosa. Quel testa di cazzo di Parenzo che sempre difende questi zingari di merda che mi hanno rotto talmente i coglioni. Nel 2006 mi hanno ucciso un cane. Hai capito? Me l'hanno ammazzato davanti nei miei occhi. Ma chi ti ha ucciso? Roma. Scusami, Marco, chi ti ha ucciso? Gli zingari. Ma ti hanno ucciso un cane? Che vuol dire? Ho fatto l'addestratore, sono un artista. Scusami un attimo. Me l'hanno massacrato, omicidio a Barbara, bastonati, un piccolo cane. Oltre al danno, pure la beffa, perché poi è arrivata la polizia. Io volevo tagliare la gola a qualche bastardo di questi qui. Mi hanno fatto, oltre al danno, pure la mente. Sono preso le botte dagli sbirri, dalla polizia. No, però, quanti, Marco, andiamo con calma. Andiamo con calma. No, ma aspetta tu, andiamo. Di fuori di via d'Ancona. Ferma, secondo episodio, a Civitavecchia, perché ti ripeto, vivo nella strada. Ero 2 mesi in un supermercato che facevo la mia bellissima colletta, perché mi sono preso altri 2 cani, perché mi piacciono i cani, dato che sono nato cane. E beh, dopo 2 mesi sono arrivati 2 bei zingari, marito e moglie, davanti alla porta del supermercato. È arrivata la polizia e cosa ha detto? Qua siamo in troppi, tutti quanti in questura. In questura dopo 3 ore, al benissimo. No, però Marco, ti devi... Marco, ti... Voglio. Dimmi, fammi finire, poi parli tu. Ma non ho capito, Mi hanno detto, lei potete andare, tutto a posto. Allora quel testa di cazzo la deve smettere di fare questa cazzo di gente. Ma tu che mestiere fai, Marco? Che mestiere fai? Proprio smettere. Che mestiere fai? Io facevo conduttore motorista abilitato, ho lavorato 22 anni. Ho avuto un incidente stradale. Ma perché hai preso il foglio di via? Non ho capito. Non mi dà un cazzo a me, vivo nella strada, capito? E dunque tu stai dicendo che lo Stato dà troppi soldi ai rom e non aiuta i poveracci come me, questo vuol dire? Non me ne frega se gliene dà o non gliene dà, non me ne frega niente, perché se qua in Italia viene la gente per lavorare, in grazia di Dio, per me ben vengano, può essere di qualsiasi etnia. E allora non ho capito di che cosa ti lamenti, spiegami. Il discorso è che loro sono protetti e noi italiani no. Ma protetti da chi? Da chi sono protetti? La polizia mi manda via, lo zingaro no. Ecco, ma perché tu che fai? Mendicante per strada, fai la colletta per strada? Mendicante, bravissimo, facevo l'artista di strada, me l'hanno proibito. No, ma scusami, come fai a chiamare Marco, come fai a chiamare la Zanzara, la radio, eccetera, facendo il mendicante da strada? Scusa, spiegami. Non ti preoccupare, io bene o male c'ho delle persone che conosco e mi aiutano, quindi per cui. Sì, ma metti il telefono bene, se no non si capisce, amico mio. Metti il telefono bene, dai, forza. Marco, non ho... Vieni, il telefono è messo bene. Vieni. No, non era messo bene. Allora, Marco, spiegami una cosa. Tu fai che cosa? Il barbone, che fai? Sì, attualmente sono nella strada. Cosa devo fare? Non c'ho. Dove altro. Dormi? Dove tutto. Dormi? Ma non perché l'ho perso, perché non lo posso più fare il mestiere che facevo io nella strada, con un sacco a pelle e 2 cani. E come fai avere i soldi per caricare il telefonino e chiamare la radio? Vabbè, ma 10 euro non penso che sia un problema. Ma perché ce l'hai coi rom? Perché ce l'hai coi rom? Perché non è una razza che mi piace, veramente, non mi piace, sono di una falsità totale, dato che io vivo nella strada, a contatto con questa gente qui, di tutte le etnie, quindi per cui sono in primis a sapere come si comportano, vanno a mangiare in una casa, sono i primi ad essere razzisti e poi dicono che noi siamo razzisti. Aspetta, fermo lì, cerca di parlare meglio, più vicino al microfono del telefono, sennò non si capisce nulla. Fermo, pubblicità. Pubblicità. La Zanzara. Allora, siamo qui da Zanzara, sempre 800 24 00 24, per chiamarci. Siamo con Marco da Pisa, che qualcuno mi dice essere un uomo con due cani che sta a Pisa da una ventina di anni. Ma sei tu, Marco? Sì, sono io. Ma che mestiere facevi prima? Non ho capito. Conduttore motorista abilitato, pescatore. Pesca, ma c'è la voce un po' impastata, che c'hai? Perché mi rimbomba sta, vedi? Mi riviene l'eco, come mai? No, adesso io sento benissimo. Ma dimmi una cosa, perché mi viene l'eco proprio come io parlo, mi riviene l'eco il mio. Perché sei incazzato con i Rom? Perché non è una razza positiva. Primo, punto primo, hanno una cattiveria allucinante. Perché comunque sia Perché t'hanno ammazzato un cane. A prescindere del cane, io ci vivo nella strada e vedo tu come si comportano. E come si comportano? Sono una razza che non riusciranno mai ad integrarsi con la nostra società, non esiste proprio. C'è proprio un capitolo out, chiuso, non esiste. Sono loro che non vogliono integrarsi perché hanno una loro cultura, non lo so, chiamala come vuoi. Ma tu come l'ascolti la Zanzara? Come l'ascolti la radio ogni sera? C'è una radietta da 7 euro che l'ho comprata da un Bangladesh. Guarda, quando si guasta ne prendo un'altra. Vuoi dire qualcosa a Parenzo? No, non volevo semplicemente dirgli due cose. Una, di non difenderli tanto. Due, gli auguro mai di non fare la vita in strada e di incapparci con questa gente qui, magari quando dorme, sai, sotto i balconi. Ma perché? Semplicemente dovrebbe... solo perché c'è uno zainetto, sai. Vabbè, ma adesso non è che perché hai fatto, sei stato vizietto di che? Pensano che magari entro quel zainetto c'hai milioni. Perché ma io non vivo per strada. Adesso due cani con i coglioni, guarda, c'ho due cani con i coglioni. Ma io non vivo per strada. Non è così. Sì, ma io... tu non vivi per strada, ma quando ma vieni a dormire dove dormo io, ti faccio ma vedere come carità, ma non ci penso nemmeno. E a contatto con chi veramente ogni giorno deve combattere giorno e notte, ma lascia stare. Oh pare, lascia stare, meglio non parlare nemmeno. Tu non vivi in strada, tu parli dietro quella radio lì perché c'è il culo parato. Vieni a vivere in strada e buscati la vita tutti i giorni. Ma vediamo un po' se riesci a parlare come parli adesso. Ma vuol che dire, cosa vuol dire? Sono tutti bravi questi. E poi non ho detto che sono tutti pezzi di merda. No, ho capito, Marco, volevo capire Giorgio, Giorgio, che vuoi dire a Parenzo invece? Vorrei dire invece cosa ne pensa di Cameron adesso, visto che parla allo stesso modo di come parla Salvini. Io rispetto che dice Parenzo, anche se non lo condivido, però lui praticamente ce l'ha sempre con gli stessi della Lega, con gli stessi argomenti e così. No, non con gli stessi. Sempre con le stesse persone. Ma non è che io ce l'ho a prescindere, non è vero che io ce l'ho a prescindere. Se uno dice, quando la Lega dice delle cose intelligenti, lo riconosco. Ma accade molto, molto, molto di raro, però. Molto di Marco, raro. Mi fai sentire i tuoi cani, per favore, Marco? Faccio il grande Sean. Chiama la tata. Guarda che c'è Sean, chiamala. Che è Sean? Sean, chiamala. Uno dei cani. Ho capito. E l'altro cane come si chiama? L'altro invece è Shiva, l'ho presa 3 giorni fa, è una pitbull con l'America Staff. Che cos'è un pitbull? Questo Sean ce l'ho 9 anni, e 9 anni che sta con me, adesso è andato a prendere i piccioni. Ma scusa, ma tu dici che non c'hai una lira, ma dove se ne va a prendere sti cani? No, io a Sean l'ho trovato 9 anni fa al parco del Cardetto d'Ancona. E l'altro invece? L'altro invece l'ho preso l'altro giorno, ce l'aveva un ragazzo di colore che non lo poteva tenere. Vabbè. Praticamente gli ho detto se me lo dava, me l'ha regalato 3 giorni fa, che è bellissimo, una grande scimmia. Va bene, prima ciao Marco, ciao Marco, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora ragazzi, ci è arrivata una telefonata, sapete la storia del senatore Azzollini, la frase che avrebbe detto, lui nega, già ai nostri microfoni, lui nega di aver detto quella frase sulle suore, con qui comando io altrimenti vi piscio in bocca, nega in maniera decisa, lo ha chiamato il Papa per accertarsi di questa cosa. è vera o non è vera quella frase. Il Papa non si occupa dell'inchiesta giudiziaria, il Papa si occupa di alcune frasi che escono fuori sulle suore. E devo dire la verità, esce fuori un ritratto molto umano del senatore Azzollini da questa telefonata che il Papa, Papa Francesco, Papa Bergoglio, gli ha fatto. Sentite. Pronto. Sì, buonasera, senatore Azzolini? Sono io. Buonasera, senatore, sono Monsignor Franchi, la chiamo dalla Segreteria di Stato Vaticana. Io ho il Santo Padre che vorrebbe conferire con lei. Posso passarglielo? Molto volentieri. Glielo passo. Sono emozionato. Buonasera, grazie. Senatore, la ringrazio. Grazie, grazie. Pronto? Pronto, sono Antonio Azzolini. Buonasera, sono. Buonasera. Sono Francesco. Senatore Azzolini. Sì, sono io. Le chiedo scusa se disturbo. No, non mi disturba, Santo Padre, sono solo molto emozionato, solo perché mi ha chiamato. Noi sono non solo molto emozionato, le chiedo scusa io. Non si preoccupi, noi non ci conosciamo. Io conosco molto bene solo il cardinale Sua Eminenza Angelo Amato, che è di Molfetta come me, ma sì. Non ho avuto nemmeno la forza di chiamarlo. Sì, è tranquillo. Io la chiamo solo per un motivo, per una ragione. Mi dica, Santo Padre. Io ho letto sui giornali le frasi che lei avrebbe detto a Suor Marcella. Santo Padre, non ho mai detto, nemmeno pensato di dirlo. Mai. Quando lei vorrà potrò farle vedere che è una prova costruita ad arte. Ho cercato di smentirla, ma in questo momento non mi dice nessuno, perché io rispetto la legge e mi assoggetto ad un processo, ma ho detto smentite, per favore. Mai. Guardi, Antonio. Mai. Non ho detto, ho pensato di dire. Peraltro i miei rapporti con Suor Marcella sono straordinari, con tutte le suore sono straordinari. Io Antonio, volevo soltanto sentire dalla sua voce se questa si è pronunciato veramente quella frase. Mai, Santo Padre, non l'ho detta, non l'ho mai pensata, non l'ho mai pensata. Le chiedo scusa se mi sente commosso, ma sto mantenendo la calma per questa storia. Mi dispiace. Tutto questo dimostrerò tranquillamente che non c'è niente di quello che dicono. Ma quello fa parte di una vicenda giudiziaria, ma questa è umana. Non ho mai pensato di dire ad una donna mai una cosa del genere. E allora? Tanto meno ad una suora. Allora, Antonio, se è così, vedrà che le cose si aggiusteranno. È così, perché ci deve essere giustizia e bisogna avere fiducia nella giustizia. Spero che lei mi possa. Ma io ho detto una cosa del genere. Io credo alle sue parole. Per questo io ho telefonato, perché sentire quelle cose mi sono sentito ferito a leggere quelle cose. Sono io che non dormo ormai da quell'attimo. L'ho scoperto ieri pomeriggio, perché me l'hanno detto i giornalisti. Guarda che hai detto una cosa, io mai, che pazzi, ho detto ma è una cosa falsa. Io allora sono felice che questo sì. Non è vero, lasceremo alla giustizia che deve fare il proprio corso. Ma Santo Padre, se lei lo ritiene, le manderò gli atti da cui si vede chiaramente che si tratta di qualche cosa di costruito, chiaramente, emerge dagli atti. Io se lei vuole, se lei lo desidera, non voglio tediarla né disturbarla. No, sono io che ho telefonato. No, per carità. Sono io che ho telefonato e quindi a me mi basta questa sua sincera risposta. E questo è importante. Sono grato illimitatamente. Noi, ma attraverso le vie normali, glielo dirò al mio vescovo, Monsignor Martella, gli darò le carte, poi saprà lui se e quando, lo farò così perché avevo già in animo, appena arrivo io, sono appena partito da Roma per arrivare giù per cominciare a vedere le carte per difendermi, che domani mattina, però non l'ho ancora preavvertito, lo farò domani mattina subito. Volevo la prima cosa parlare col vescovo, la prima cosa. Ha fatto bene Antonio, ha fatto bene. Io un giorno magari ci vedremo a Santa Marta, quando che le cose saranno più tranquille, sì, perché non voglio naturalmente, Santo Padre, so perfettamente le sue responsabilità, i suoi compiti. Appena ci sarà qualche cosa che comincerà su quel punto specifico a togliere questa macchia terrificante, farò in modo di chiedere di poterla vedere per poter ringraziarla di questo suo gesto. Ci potremo vedere. Intanto Antonio, che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. Buonasera. Grazie. Buonasera Santo Padre, grazie. Arrivederci, grazie. A presto. Grazie. Allora, sai Parenzo cosa esce fuori da questa telefonata drammatica, eh? Avete sentito l'umanità di questa, come Beh, dire? Devo dire di sì. Al di là della questione giudiziaria, ovviamente, esce fuori un personaggio che di fronte al Santo Padre, perché lui pensa davvero di essere di fronte al Santo Padre, scoppia in lacrime perché chiama il Papa, una persona... No, ma era sentito il sentimento, anche il fatto che, secondo me, allora forse è vero che non ha detto... Ma infatti frase. Secondo me pure. Perché se uno... No, questo te lo dico seriamente. Siccome mi sembra sia un cattolico credente, sì, di fronte al lacrime. Papa, se glielo chiede il Papa in segreto, diciamo in segreto, avrebbe dovuto dire magari... Secondo me è scriminante questo, come cioè poteva dire sì, è vero, guardi Santo Padre, quella frase mi è scappata eccetera eccetera, mi deve dare il perdono, sono pentito. Però il fatto che lui l'abbia detto, anzi dico di più, consiglio agli avvocati della difesa del nostro amico Azzolini, sì, di prendere questa telefonata a testimonianza del fatto che un cattolico credente come lui di fronte al Papa ha detto la verità. Io l'ho dato Gesù Cristo sempre. La Zanzara. Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così fa cagare! Andiamo a Biella, Andrea, 800 24 00 24. Andrea, vai! Sì, ciao. Ascolta, io intervenivo, a parte dopo Azzolina che è veramente fantastico, non saprei dire se è un grande attore... No. L'attore era un altro, casomai. Il punto fondamentale è che secondo me lui ha risposto con assolutamente in maniera sincera. Cioè, in questi giorni si parla di Azzolini come, no, il grande burattinaio delle vicende di Molfetta, la questione della Divina Provvidenza, per carità, poi andremo a vedere nel corso degli anni i processi e tutto quanto. Però in questa telefonata c'è il lato umano di un politico, il quale è riconosciuto come un politico molto fumantino, irascibile, le scenate che vedete anche sul web. Beh, ma quello è quello che induce un po'. Alla fine, dici che. Ma no, ma quello è il Papa che parla, quello siamo davanti al Papa, dice no, mai ho pronunciato quella parola sulle suore, vi pisce in bocca, ma figuriamoci, io non ho mai pensato di pronunciare queste frasi, ho le prove che nelle carte è tutta una montatura, e lo dice più e più volte. Magari no, se fosse stato vero davanti al Santo Padre poteva crollare, no? Poteva dire sì, è vero, Santo Padre, non lo dico. Non so se è meglio il Papa o Azzolina, no, non so. Vabbè, allora? No, io volevo fare riferimento, invece la risposta che avete dato alla Beccalossi, che probabilmente vi sta un po' sui coglioni. Ma no, a me non sta affatto sui coglioni, a Parenzo forse, a me no. No, ma non è... Ecco, un po' a Parenzo, infatti sono d'accordo un po' con Giorgio di prima, è un po' prevenuto. Vabbè, allora? No, vabbè, al di là di quello, no. Ma io prevedo tutto quello che la gente dice, non è che sono prevenuto. Ma non so. Vabbè, comunque, Andrea, dai, forza. No, allora, sul fatto che la polizia non possa sparare, quando tu dici... No, loro sparano, non possono sparare. Ma dipende, Giuliani... in alcuni casi possono sparare, ragazzi. Giuliani insegna, Placanica insegna, sì. Non possono sparare. Per me la polizia dovrebbe sparare molto di più di quello che fa adesso, guarda, te lo dico sinceramente. Non lo decidiamo noi, però. No, però State sicuri, cioè, state certi che verso di loro adesso non è che voglio. Sì, ma non è che uno col macete, quella situazione lì che no, si è creata certo. Dentro il treno, non è che si evita se la polizia però, può sparare di più. Cioè, perché se ci fosse stato un poliziotto vicino, cosa. Avrebbe reagito. Quella roba sì, lì, purtroppo. Cosa, io mi domando un'altra cosa, ma com'è possibile che esistano ancora? Possibile che. No, va bene, d'accordo, non riusciamo a sgominare la mafia, non riusciamo a sgominare definitivamente la Camorra, non riusciamo a sgominare definitivamente l'Andrangheta, quello che volete. Ma com'è possibile che non riusciamo nemmeno a sgominare le gang latine di Milano? Ma cazzo, saranno quattro cialtroni, no? C'è cioè queste gang, ma sì, ma saranno quattro peracottari, 400, 200, ma certo non è l'Andrangheta, non è la mafia. Non riusciamo nemmeno a smantellare queste quattro bande di rincoglioniti sudamericani che vanno in giro col macete. Questo sì, ma il fatto che il poliziotto, che un poliziotto possa sparare non avrebbe cambiato nulla, niente in quella vicenda. Diciamo la verità, niente. Purtroppo quel capotreno ha avuto la sfiga di incontrare un matto col macete. Poi questo macete è facile introdurlo o no? I macete si possono comprare un po' dappertutto, immagino. Adesso c'è un altro che vuole parlare di questo, mi sembra di capire, no? Dov'è? Allora, Andrea, dimmi. Finisco, chiudo dicendo che, allora, sono sicuro che il poliziotto spara, si difende, legittima difesa, lui è punito, sicuro, e come dicevi tu prima, il problema è che l'omino col macete resterà impunito, purtroppo è così, questa è l'Italia ma oggi. Ma non credo che rimarrà impunito uno che stacca quasi, cioè, un braccio a un capotreno, dai, no, su. Però la sensazione che noi come cittadini italiani è quello che tu dicevi prima, che sottolineo, cioè su cui concordo, che è l'impunità, la Costituzione migliore del mondo, le leggi migliori del mondo. Ma riguarda tutti i criminali, però, scusami, allora. Non è va che bene, Massimo da Milano, vai, Massimo. Pronto, eccomi qua. Dimmi. Buonasera a tutti, compagni della trasmissione. Dunque, i macete sono di libera vendita nei negozi etnici a 100 metri dalla stazione centrale di Milano. Sì. Quindi puoi scegliere addirittura il modello con l'impugnatura in gomma piuma, l'impugnatura con fibra di bambù. Quindi, voglio dire, punto uno, i poveri sciagurati attorno dentro la stazione centrale, se qualche giorno se vogliono regolare qualche conto, se lo vanno a comprare per pochi euro, libera vendita. Seconda cosa, il ciccano di turno lo vede, se lo compra, se lo mette nello zaino. L'avvocato difensore può benissimo dire: il mio cliente ha comprato questo articolo in un negozio di souvenir, lo portava di libera vendita, lo portava liberamente nel suo zaino perché nulla è segnalato, l'ha usato per difendersi pensando di potersi solo difendere, quindi do ragione all'ascoltatore precedente. Cioè? Si finirà impunito, cioè sarà l'avvocato di turno che dirà: ma il mio povero cliente non sapeva poteva tagliare un braccio. Pensava fosse un souvenir, pensava fosse un portafortuna. Ma figuriamoci, non credo. No, qualcuno mi dice. Guarda cosa è successo a Roma. No, qualcuno mi dice. Scuse, qualcuno, ma no. Diranno, poveretto, era un souvenir. Ma non credo proprio, era un souvenir. Che fai col souvenir? Do ragione alla sua dote precedente. Guarda, no, mi ha tolto le parole di bocca. Scusami, Massimo, ma adesso, al di là del fatto che possa essere considerato un souvenir, sicuramente è sbagliato. Un macete, non è che va venduto così facilmente. A 100 metri alla d'accordo, e questo può darsi che. Del negozio, è a 100 metri la stazione di Milano. E questo evidentemente è un problema che bisognerà risolvere. Ma l'altra cosa è che se uno può tranquillamente avere un coltello, portarselo dietro ed è appunto in maniera legale, però dopo non è che colpisce il controllore o colpisce il capotreno, perché quando lo colpisce non è che puoi dire: no, avevo il coltello, ma non sapevo. Anche che... col coltellino svizzero ma puoi dai, uccidere scusa, la persona. Comunque uno mi dice: le gang latine spadroneggiano da mezzo secolo a Los Angeles, dove la polizia spara e vige tolleranza zero. Sì, ma qui non siamo a Los Angeles. Io dico semplicemente che se esistono delle gang, delle bande di latinos a Milano, saranno pure pericolose, però insomma, amico mio, penso che possano essere smantellate facilmente. Non ci vorrà il genio per smantellare ste gang, o no? Angelo da Brescia, dai, su, forza Angelo. Ciao Cruciale, dimmi Angelo. L'altra sera c'era la ginecologa lì che parlava delle misure, no? Sì, ieri. E io ho 68 anni, non mi ero mai posto questo problema. Sì. Incuriosito, ho preso il centimetro lì che aveva la mia ex moglie. Vedi? È morto, poverino. E sono andato a dare la misurata. Adesso ho capito perché qualcuno ogni tanto mi capitava per le mani, faceva dei brutti versi. E allora? No! E allora sono stato lì e ho detto: o sono io non normale o sono normali gli altri. Sono rimasto un po', come si dice, allibito. Cioè? È stata una bella sorpresa quella di quella dottoressa lì. Cioè, non ho capito, spiegami, non ho capito. Hai sentito quella dottoressa che parlava di misure, no? Pene, sì, piccolo, pene grande, eccetera, eccetera. A un certo punto, incuriosito, siccome non l'hai mai fatto, ti sei andato a misurare. No, non m'era mai posto. Ti sei andato a misurare il pisello alla tenera età di 69 anni, 67, quanti ce n'è? Il risultato qual è stato? Che volevi sapere le misure? No, ma allora che ci hai chiamato a fare? Scusa, te lo sei misurato allora? No, ti ho chiesto, io te lo posso dire, è il 18 di circonferenza. Che cos'hai, scusa, 18? Di calibro si dice. Di circonferenza? Mettila come vuoi. No, si dice calibro, la dottoressa diceva calibro. Sì, vabbè, mettila come vuoi. E comunque niente, sono rimasto lì male, poi ho pensato a quelle... Quando ero a Genova, che ti sei tranquillizzato o no dopo quello che hai fatto? No, mica tanto, perché mi ricordavo i versi che faceva quella là. No, aspetta Angelo, non ho capito bene, però cerca di articolare meglio, dacci dei numeri reali, delle cose reali, altrimenti non capiamo, dai, fermi lì. Amico mio, e allora? La Zanzara. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Nella giornata dell'assoluzione di Dominique Strauss-Kahn dall'accusa di istigazione alla prostituzione, non so che altro, per fortuna, uno che va a mignotte non viene processato, cioè non viene condannato, purtroppo viene processato. In questa giornata fausta, in questa giornata felice, in questa giornata straordinaria, c'è un signore che si chiama Angelo, che ha circa 69 anni, ci chiama da Brescia, il quale, sentendo ieri l'intervento di una sessuologa, psicologa, non mi ricordo nemmeno, è un medico, ginecologa, proprio, medico, insomma, vabbè, che diceva che piccolo è bello, cioè il pene piccolo può essere positivo nel rapporto tra uomo e donna, se l'è andato subito a misurare e ha detto che ha 18 centimetri di calibro. Abbiamo detto che sarebbe accaduto, ti però, ricordi che ieri? Sì, d'accordo, però Angelo, abbi pazienza, ma 18 centimetri di calibro è praticamente impossibile, scusa, Angelo, ci stai raccontando una coglionata. No, mi spiace, niente, quanto mai l'ho detto. No, mi spiace, è che io non ho... sono mai andato a vedere quello che avevano gli altri. Io so una cosa, che ero a Genova a lavorare. Del 90 e ho conosciuto una signora. Sì, allora? E mentre stavo facendo il pastore, ho visto che faceva diversi un po'. Faceva? Il pastore, facevo il pastore. Sai cosa fa il pastore? Cosa fa? Beh, posso immaginarlo. Le pecorine. Che fa? Le pecorine. Ma questo, tu perché tu ti facevi le pecorine? No, facevo... Io... Ah, con lei facevi il pastore. Lei faceva la pecorina. Vabbè. Siamo alle 20:01 in un momento particolarmente pecoreccio, come si potrebbe no, dire. No, niente, comunque ho visto che faceva dei brutti versi. E allora? Ma no, ma io pensavo che fosse una cosa diversa, adesso me lo sono immaginato perché. E invece? Mi sono immaginato che quei versi che faceva non erano proprio di godimento. Cioè erano di dolore. Penso proprio di sì. Ma no, ma no, io non ci posso credere che siamo al 18 calibro. No, ma guarda, tu puoi non credere, mica sono qui a vendere qualcosa io, per l'amore del cielo. Tanto siamo alla radio. No, ma scusa Angelo, però abbi pazienza, mi sembra un po' troppo, francamente. Cioè, vabbè, adesso... Ma dici la verità, mi sono curiosito per quello, perché quando ho sentito la dottoressa lì, ho detto, porca miseria, aspetta un attimo che vado a misurare, l'avevo lì sulla ma macchina. Ma tu scusa, ti stai confondendo tra la lunghezza e il calibro, secondo no, me. No, la lunghezza, quella è lungo una spanna, Ma una spanna che vuol dire una spanna? Beh, Angelo, ma che sei, una bestia, un animale, che sei? Cioè... Ma che sono? Sono ma che sei, disumano, che sei? Ho il capo cantiere a Brescia io. Hai sempre fatto? Il capo cantiere a Brescia. Ma che vuol dire che hai fatto sempre il capo cantiere a Brescia? No, sono una persona normale, dopo che mio fratello me l'abbiamo fatto fuori misura, vabbè, non so che dirti. No, ma non è ma normale. Sai cosa non è normale? Non è normale che uno a 68 anni prenda il righello, diciamo, quello non è normale. Immaginate, è arrivato Sapientone qua. No, Sapientone è un collo, non è normale che uno a 68 anni. Perché no? Perché non mi sono mai posto un problema a testa agricola. Non si è mai posto il problema. L'altra sera stava sentendo e si è posto il problema. Che ti devo dire? Ah, cioè, quindi diciamo una trasmissione di servizio pubblico. Questo ah, sì, hai ragione. Sì. Difatti, hai ragione. Dovrebbe chiedere il canone, come la Rai. Prima di parlare con voi, sì. L'argomento gliel'ho spiegato alla signorina. E non volevo dirglielo, cioè non l'ho detto in misura, ho detto che ero un po' caricato lì, vabbè. E fa va bene, poi la richiamiamo, e quello è successo. Vabbè, Angelo, detto, ciao. Io non sono mica qua a far Rocco Siffredi. Vabbè, però se ti sei presentato come tale, 18 centimetri di calibro, non so, una spanna di lunghezza, e che c'hai in mezzo alle gambe? Una bestia, cioè sei disumano, cioè, vai in un museo, non lo so, cioè, ma una moglie ce l'hai o no? Tatuina. Ma la moglie ce l'hai o no? No, sono rimasto vedovo un anno fa. E tua moglie che diceva? Sì, poverina, le volte diceva lasciamo perdere, va. Cioè? Beh, insomma. Aveva paura? No, paura no, però dovevo far molto con delicatezza perché la cosa era un po'. Però io non pensavo a tutte queste porcate qua, ecco. Ma come? Mi sono venuto colpo di matto e sono andato a misurarlo, ma pensa te, quasi a 70 anni uno va a misurarsi. Il fratellino lo chiama, capito? Vabbè, Angelo, ciao. Collegamento speciale, si parla molto di profughi, accoglienza, prenderli, non prenderli, dove prenderli, no dove prenderlo, dove prendere i profughi, le stazioni di alcune città italiane vergognosamente invase da profughi, ma loro non hanno colpa, il problema è la organizzazione agghiacciante dello Stato italiano che ancora una volta dimostra di essere un colabrodo. Diretta da Albettone, Vicenza, Joe Formaggio. Eccoci qui, caro sindaco. Ciao, buonasera a tutti. Come andiamo col fucile? Come andiamo? Tutto bene, tutto sotto controllo qua. Sempre sotto il letto? Sempre sotto il letto, pronto all'evenienza, pronto nel caso in cui ci fossero rotture di coglioni. Esatto, il fuori dalle palle. Famoso fucile a pompa. Allora io voglio chiedere ad Albettone innanzitutto. Mancava lui in un giorno come questo. Scusa, Formaggio intanto è stato trombato, sì, alle elezioni. È stato trombato alle elezioni, mi sembra, no? Sì. Parenzo, non vuol dire niente. Infatti volevo proprio dirglielo, si vede che le sue ricette hanno funzionato molto effettivamente. Molto hanno funzionato. Vabbè, maestro, quanti voti hai preso, Gio? 2004. Vabbè, 2004 non è male, dai. Sì, su. Ma era il partito piccolo. Se non mi tiravano via dalla lista Zaia sarei arrivato primo, quindi. Ah, perché però tu non ha importanza, non ho mai vissuto di politica. Per cui eri nella lista Zaia, poi invece ti hanno tirato fuori. Come mai ti hanno tirato fuori dalla lista Zaia? Perché eri troppo forte? Ah, no, perché hanno messo delle regole che non potevano candidarsi i sindaci, quindi nessun problema. Ah, vabbè. E quindi ero indipendente in Fratelli d'Italia, non potevo andare col PD, no? Beh, quello no, immagino che nel PD non ti. Anche perché t'andava male col PD in Veneto, Molto male. Non t'andava bene col PD. Senti, a proposito, caro Gio, io vorrei capire la tua ricetta. Caro Gio. Beh, perché mi sta simpatico. Tra l'altro, in questo numero di GQ di giugno sì. Ci sono tre interviste, Parenzo, nell'ordine. Sinisa Mikhailovic, l'allenatore elegantone che ci ha aperto l'armadio. Giuseppe Cruciani, intervistato da Francesco Merlo, cioè il sottoscritto. E cosa hai aperto tu? E poi io non ho aperto nulla. No, e Gio Formaggio, il sindaco pistolero dal nome impossibile. Questo trittico intervistato. Ma che meraviglia! Beh, è stupendo. Ma che bella compagnia. Comunque, dormo con un fucile a pompa sotto il letto, c'è scritto. Beh, tante altre cose. Vabbè. Caro Formaggio, io voglio capire, l'altro giorno hanno stuprato una ragazza disabile. Voglio capire le ricette di Gio Formaggio con le emergenze che abbiamo in Italia. Allora questi che hanno stuprato la ragazza disabile, una ragazza disabile, sì. Vengono impiccati in piazza. Beh, impiccati. Mi fa emozionare. Ma Formaggio mi fa emozionare subito. Vi rendete conto, una ragazza disabile incapace di intendere di volere? Ma invece, ascoltami qua. Invece Formaggio, andate a chiederlo ai genitori cosa farebbero a sti tre mostri. Ma lascia che lo dicano i genitori, ovviamente. Ma tu sei un pazzo patentato, anzi non patentato. Ma io faccio compost per i fiori di quella gente gente lì, ma stiamo scherzando? Cioè uno che, stupra uno stupratore, tu compost fai compost per i fiori, perché non li mantengo in galera a 400 euro al giorno? Compost ma per i fiori, per ricco. Un amministratore, ma ti rendi conto? Io sono un amministratore. Beh, ma che no, c'entra? Ma non è che decide la pena di morte o no, mi sembra favorevole la pena di morte, peraltro, signor Gio Formaggio, in alcuni casi. Ma certamente, no? Ma per della gente che stupra delle persone disabili o dei bambini, merita la pena di morte, non merita nient'altro, cosa fa? Lo mantengo in galera? Perché 400 euro al giorno costa un carcerato. Questo in ogni caso, a prescindere dal fatto che fosse extracomunitario. Ma uno che stupra una disabile o un bambino merita la pena di morte? Cosa fa? È evidente che è un reato più orribile. Ma guarda che è incredibile. È evidente che sia il reato più orribile che uno possa commettere. Bene, allora dimmi, sei la scienza, dimmi cosa gli fai. Ma ormai siamo non alla chiacchiera da bara, alla scoreggia in piazza proprio. No, però scusami un attimo, adesso. No, ma non puoi giustificarlo. Scusami, anche tu non puoi giustificare. Una persona che arriva a fare quei gesti lì è incurabile, hai capito? Allora, per non nuocere alla salute degli altri, delle persone civili che si comportano bene, va eliminato. Lei è un barbaro proprio. Però io sono un barbaro e me ne vanto anche. Ma è proprio un barbaro. Ma dai, ma hai visto dove stiamo andando? Dimmi che futuro lasciamo ai nostri figli. E i pedofili, che cosa faresti tu con i pedofili, Gio? Ma allora, al Bettone intanto, visto che siamo la culla dell'inciviltà, sì. Noi siamo stati i primi in Italia a fare un gemellaggio con l'associazione Prometeo, che aiuta bambini e famiglie vittime degli abusi. Vabbè, qua siamo pronti con dei soldi, perché abbiamo un conto. Ma questo è d'accordo, ma concretamente quei pedofili che fai? Li curi? Li fai la castrazione chimica? Ma ascoltami, dimmi, allora, i pedofili sono incurabili. Dunque via. Uccisi. Non puoi fare. No, uccidili, li devi segregare, li devi bastonare. Vabbè, segregare. Sono dei malati. Sì, ma allora, che non possono essere curati. Ma si è mai detto che quello deve essere impiccato in piazza? I pedofili invece vanno curati, ho capito, vanno segregati e bastonati. No, non possono essere curati. E dunque? Avete capito male? No, ha detto bastonati. E dunque segregati. Via. Ma via, come? Che vuol dire via? L'impicca Gio? C'è la castrazione, ci sono tantissime altre cose. Vabbè, fermi un attimo. Dopo, qua, continuiamo a tutelare chi ha problemi. No, ma io non tutelo nessuno, io voglio capire tu che cosa faresti davanti alla pedofilia. Quando uno viene scoperto per un atto pedofilo, il tuo provvedimento qual è se tu governassi? Qual è il tuo provvedimento? L'uccisione, la pena di morte, l'impiccagione, qual è? Castrazione e lavori forzati. Castrazione e lavori forzati. Pubblicità, torniamo tra un attimo. Siamo ad alti livelli qua. La Zanzara. Going to the city. Got you on my mind. Country show is pretty. Ormai è tutto degradato. Allora, sta succedendo una cosa incredibile in queste ore, caro Parenzo. In Trentino di nuovo, c'è la vicenda di un orso che ha aggredito un povero signore, un 45enne che stava correndo, no? Quanti orsi ci sono in Trentino? Purtroppo ci sono un sacco di orsi, li hanno messi lì per ripopolare, no, purtroppo in realtà, però poi ce ne sono alcuni incontrollati. Ha aggredito, graffiato, in maniera molto grave, tra l'altro, uno che non è che stava disturbando, è andato lì col fucile, ma stava semplicemente correndo. Adesso, ovviamente, che cosa bisogna fare con quest'orso? Innanzitutto bisogna prenderlo. Poi forse verrà decisa la sua sorte, può darsi che sopravviva. Può darsi che bisognerà abbatterlo, non lo so. Però adesso cominceranno quelli a dire: non toccate quest'orso, non lo abbattete. Ragazzi, ci sono orsi che diventano pericolosi. Diventano. Gli orsi sono pericolosi. Sì, sono pericolosi. Se questi qua non vengono pericolosi quanto Gio Formaggio, peraltro. No. Beh, sì, almeno l'orso, come dire, no, non ha colpa. Formaggio, gli orsi le fanno paura a lei? No, sono un orso anch'io, ha ragione. Almeno l'orso non governa, capito? Non governa. È la prima volta che ti do ragione. Ecco, ma la differenza tra te e l'orso, tra te e l'orso è molto semplice, è che tu purtroppo governi. Governi e il tuo istinto lo potresti controllare. L'orso no, invece, che ha un istinto, e quindi questo è il grande dramma. Preferisci gli orsi o i rom, Gio? 10-1 gli orsi. Cioè, no, meglio io sto con gli orsi. Beh, essendo tu un animale, non c'è dubbio. Esatto. Senti una cosa, proprio da ridere, però. Ma i profughi non vengono ad Albettone, non li ricevete, non li ospitate? No, ma credo che il prefetto non abbia tutto sto coraggio. Perché? Mette i vigili urbani, cosa mette davanti? No, ma sai, allora io ne sto parlando perché insomma è l'argomento del giorno, no? Sì. E lo consiglio anche agli altri sindaci. Io ho preso un avviso di garanzia quando ho fatto l'ordinanza per i Rom, no? Sì. Meno male. Sono pronto? No, beh, siccome avviso di garanzia più, avviso di garanzia meno, io l'ho già detto pubblicamente e lo consiglio a tutti i miei amici sindaci che sono all'ascolto, sì, di fare un'ordinanza sanitaria, sì, per queste persone e appena arrivano ricaricarli su un altro pulmino e portarli fuori dal comune immediatamente, perché siccome questi qua non sono neanche codificati, che non sappiamo neanche come si chiamano, da dove vengono, non hanno neanche né tesserino sanitario, né niente, tanto si dice identificati perché non sono della merce. Io ho capito una cosa, Gio, se c'è il sulle merci, capito, i codici sono sulle merci, sui pacchi. Ecco, allora come vuoi, identificati, ecco, ma non sappiamo che malattie abbiano e quindi vanno fuori. Ma quindi io ho già l'ordinanza pronta prima che il prefetto decida di mandarmi qualcuno. Metti che il prefetto decide di mandarti, che ne so, 10 extracomunitari. 10 extracomunitari. Tu che cosa fai concretamente? Dici ad Albettone vanno 10 persone. Me li portano, li scaricano. Appena vanno via i carabinieri e la polizia, dico ci li prendo cura. Li carico su un pulmino anche a forza, perché ho delle persone che mi aiutano. E dove lo porti? Li porto fuori dal confine di Albettone, dove voglio mettere le sbarre. Sì. Le sbarre. Come le sbarre? Che vuol dire le sbarre? No, te l'ho detto che l'altra volta, no, che se fosse per me metterei le sbarre ad Albettone. Ma come fai con le sbarre? Le sbarre tipo i... Quello è un principato. Tipo i confini, ecco. I confini col... Tipo il confine, noi stiamo bene qua da soli. Poi cosa allora, metti? Le torrette come c'erano nei campi? Con i cecchini. Torrette con i cecchini. Ma veramente vuoi fare una cosa allora, del genere? Allora, fuori, guardami, fuori dal confine, li porto fuori dal confine e non possono più entrare. Ma questo perché è un l'ordinanza. Sanitaria. Ma è pazzo questo. No, vabbè, scusa, è una cosa molto concreta. Portateli a casa te, Parenzo, portateli a casa te. Sta dicendo una cosa concreta. Lui, ma se lo mandano. No, concreta è questa. Se gli... Lascia perdere le sbarre, adesso sentiamolo sulle sbarre. Gio Formaggio sta dicendo: se mi portano i profughi, se il prefetto non so di dove decide, ad Albettone vanno 10, 15, 20 profughi. Questi qua, ovviamente, arrivano fino in città, perché per adesso non ci sono le sbarre, riescono ad arrivare. Cioè, riescono ad arrivare in città, te li depositano lì vicino, che ne so. A un... Ma non depositano, ma non sono. Vabbè, li fanno scendere da questo. Ma che pullman. Linguaggio è? Tu li lasci lì, dopo li fai arrivare perché non puoi impedire che arrivino, no? Bravo. E poi li riporto subito fuori. Appena vanno via i carabinieri e la polizia, li carico su un pulmino a forza. Sì. Gli dico, venite che vi porto io. Sì. Li metto fuori confine. Sì. Del mio comune. E dico, non potete entrare perché non so che malattia avete. E poi e dove li lasci? Il sindaco è responsabile sanitario. Dunque, questa io è faccio un'ordinanza sanitaria. Fai è già pronta. Questa è già Parenzo. Pronta. Già pronta l'ordinanza sanitaria. È già pronta e quindi credo che abbiano la buona coscienza di non mandarmi nessuno, insomma. Ma scusa un attimo, è sta storia delle sbarre che non ho capito che cosa vuoi creare. Questa qua era venuta fuori con i nomadi, no? Quando mi hanno tirato via il cartello ho detto nella zona industriale, sì, come arrivano di notte, nella zona industriale metterò sulle sbarre. Le arriva sbarre. il camionista belga che deve caricare farlo. La plata. Ma non si possono mettere le sbarre per strada? Come fai a mettere le sbarre per strada? Ma no, per strada, siccome i nomadi vanno nella zona industriale, li metto all'ingresso della zona industriale. Cosa devo fare? Senti Gio, io non ho capito una cosa, ma a Vicenza la situazione qual è? Cioè la situazione, tu sei di quelle zone? È il degrado più assoluto. Cioè? Ti racconto solo un episodio. Raccontami. Che mi viene da vomitare a pensarci. Dimmi. Allora, primavera, no? C'è la badante che porta fuori la nonnina in carrozzina, sì, e questa nonnina che ha costruito l'Italia di 90 anni, sì, è costretta a vedere un emigrato che, sì, con la sua compagna, sì, la sua compagna gli sta facendo una pera sull'uccello. No, aspetta, in pieno giorno, aspetta, nella città che è la terza Confindustria d'Italia. Io mi viene a vergognarmi di essere vicentino. No, però scusami, che cos'è che è successo? Non ho capito. Cioè, in pieno giorno, una badante... Una badante sta portando via un'anziana. Un'anziana. E un'anziana non può sedersi... Sta passeggiando per il parco. Sì. E è stato anche ripreso, perché c'era un video che girava, dopo l'hanno tirato allora, via, per fortuna. E c'era una... Una coppia di immigrati? Un una ragazza di colore, una ragazza di colore, si può dire ragazza di colore, sì, che faceva una pera di eroina, sì, sull'uccello, beh, ragazzi, del suo compagno. E dopo hanno beccato anche due che facevano sesso sempre in pieno giorno, sempre due extracomunitari, sì, profughi eccetera, che facevano. Però scusami amico mio, il problema è che oggi le pere se le fanno tutti, non è che solo pure gli italiani si fanno le pere, non è che... Sì, ma siamo arrivati a un punto di degrado che è un punto di non ritorno. Vabbè, la polizia, tipo, che, ormai, la polizia non che abbiamo può... più neanche il nostro parco, allora. Ma la polizia che può fare, dicono... di più? Per esempio nel caso di... Ma la polizia, ma io, ma è anni che difendo la polizia che ha le mani legate. Cioè che... lasciamoli tirar fuori il manganello e pestarla sta gente qua. Pestare la gente col manganello. Cioè la polizia deve picchiare di più la polizia. La polizia deve, io ho visto, io te l'ho detto, per lavoro giro tutto il mondo, io ho visto la polizia canadese, le polizie americane, sì, pestare chi si comporta male. Cioè chi si comporta in male Italia, vengono, in Italia cosa succede? In Italia regolari. No, aspetta, in Italia invece la polizia si becca le denunce perché stringe troppo le manette, gli facciamo troppo male, poverini, alle manine. Cioè secondo te la polizia in Italia deve picchiare di più, questo è il punto. Madonna santissima, sì. Vabbè, caro Joe, a presto, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Davide Milano, vai! Buonasera Cucciari, buonasera Parenzo. Una cosa, dimmi, veloce come testimonianza rispetto a quello che è successo nel treno. Allora, io ogni tanto ho preso, insomma, quel treno lì, il passante ferroviario di fatto, è un'altra linea, ma insomma è la stessa questione. Sì. Mi è capitato un paio di volte che i controllori, sì, non chiedessero i biglietti agli ultimi due vagoni perché, sì, pieni di sudamericani che si tolgono le scarpe, appoggiano i piedi sui sedili, insomma, perché, sì, avevano, sì, paura. Sì. Questo ragazzo trentenne, 32enne, dico, ma perché non chiedi il biglietto di là? Perché ho paura, perché più una volta ci hanno minacciato. Quindi è semplicemente per questo. Questa era una situazione che si poteva benissimo prevedere, cioè ci si poteva, ma come al solito, sopra. Come al solito, che cosa è successo probabilmente? Che ci sono segnalazioni magari da mesi, da anni, di persone pericolose all'interno dei treni, sicuramente i controllori fanno queste segnalazioni e poi tutti se ne fottono, questo è il punto. Questo ragazzo che avrà avuto, ripeto, 30-35 anni al massimo, lui mi ha proprio detto che ha fatto più volte segnalazioni, credo alla regione, perché sono le Nord, quindi credo sia una questione, allora, di competenza di Maroni, ma non lo so, non mi interessa, non è per me una questione politica, è una questione semplicemente, tu vedi un ragazzo di 30-32 anni che non può fare il suo lavoro, perché tu non vai a chiedere i biglietti a 7-8 mezzi ubriachi alle 8, alle 9 del mattino, ecco. No. E la situazione è questa, se mettessero magari un paio di persone in più robuste che dessero una mano, posso dire, sì, però ti dico anche un'altra cosa Davide, la questione è molto semplice, chi oggi fa queste minchiate all'interno dei treni, sfascia le carrozze, se sfascia i sedili, in questo caso colpisce un capotreno, non può farla franca. Cioè è anche l'imbecillità di queste persone, perché ormai con tutti i controlli che ci sono, con le telecamere che ci sono in tutti i vagoni, una volta è successo anche recentemente sulle ferrovie nord di Milano, che c'era quel tizio là, quella banda di deficienti che ha sfasciato un intero vagone, no? Ma è stata subito identificata, cioè sono stati identificati tutti, non si può sfuggire a queste cose. Dunque, che cosa, andate in giro col macete a ferire la gente che fa il suo lavoro, ma quando sì, poi si... senza dubbio, ma dai, ma sono una banda di quattro coglioni, dai, su, altro che latinos, quattro coglioni, però sai, non ci vai a chiedergli il biglietto, no, ma questa è una follia. Detto questo, queste situazioni estreme esistono in tutte le metropolitane del mondo, non è che esistono, e comunque anche sulla questione delle telecamere, fidati, io l'ho preso una ventina di volte, non è che lo prendo tutte le mattine, però le telecamere anche lì non funzionano, cioè non lo so, l'altra volta hanno funzionato con quelli che hanno distrutto il treno, amico mio, vabbè, qualche volta. Vabbè, ciao, Gino Genova, vai, ciao. Gino. Gino? Pronti? Dimmi. Sì, pronto. Dimmi, ma chi sei? Sempre quello di Mollica, tu? E allora, no, settimana scorsa è successo a Genova che la polizia ha eseguito un arresto dello spacciatore latino. Allora, la macchina è stata accerchiata. La macchina di chi? Della polizia, naturalmente. Sì. Allora? Con l'arrestato. È stata cerchiata, danneggiata, poi ha chiamato rinforzi, sono arrivate le altre volanti, morale della favola, 11 agenti feriti, quindi quindi voglio dire, ormai la polizia ha paura a intervenire, perché poi ci sono tutti gli amici di Parenzo che criminalizzano la polizia. Se quelli sul treno salissero dei poliziotti, perché poi quando fanno la denuncia, tu dici fanno la denuncia, e cosa se ne fanno dalla denuncia quei ragazzi lì? Assolutamente nulla. Però se ci fossero delle squadre di poliziotti con dei bei manganelli, e quando entrano sul treno non ha il biglietto, tu puoi anche avere ragione, Gino, ma non si può pensare che i treni debbano essere presidiati 24 ore su 24 ogni vagone, perché sennò non basterebbero 50.000 poliziotti. Quel controllore lì, quel capotreno, è stato anche sfigato, perché ha incontrato quattro delinquenti col machete in mano, perché di solito magari succede una piccola rissa senza conseguenze gravi. Dai, su, Ulli, Genova. Sì, io intervenivo sempre su questo fatto di Milano, e quando si parla di criminalità degli immigrati, secondo me bisogna paragonare il tasso di criminalità di queste persone al tasso di criminalità di italiani che vivono alle stesse condizioni. Bravo. Dato che manca, cioè che potrebbe anche venire fuori, che non è più alto, no? Perché per un gruppo di idioti violenti viene alimentato un pregiudizio Guarda che a me non me ne frega niente se questi qua sono latinos, se questi qua sono sono semplicemente dei criminali che hanno usato il machete, ma sono anche stupidi, perché è evidente che tu vieni, magari erano ubriachi, è evidente che tu vieni identificato ormai a Milano, Ferrovia Nord, con le telecamere, con le indagini. Ma dove vuoi andare? Per questo dico che la gente mi scrive: no, queste bande di latinos sono pericolosissime. Ma di che stiamo parlando? Cioè, non siamo in grado di smantellare le bande italiane, non quelle americane, di questi quattro cialtroni di latinos? Ma dai, su. Tu sei un depravatone, mi piace anche per quello. Anche Parenzo un po' depravato. La Zanzara. Io adoro i paesi civili come il Colorado negli Stati Uniti, dove sapete che la cannabis è legale e dove si riesce a guadagnare del denaro sulla cannabis, sulla vendita e la commercializzazione della canapa. E addirittura è stato creato un resort di lusso solamente per fumatori di cannabis, cioè un albergo riservato a chi si fa le cannabis. Bello. Con cucina, yoga, massaggi a base di cannabis. Una tua destinazione, Parenzo, Sì, sì, beh, potrebbe essere una tua destinazione. Sì, beh, non è che vado in un posto per farmi le canne, però chissà quanto costa poi. Ma sì, primo devi andare in Colorado, secondo... Beh, ma no, se vado in Colorado vado a vedere altre cose che non posso dove... Beh, Colorado se non... Fare canne uno se le può fare anche a casa propria, scusa. Ma che c'entra, dai. Allora, io vorrei chiamare un posto, Parenzo, perché questo posto mi hanno detto una specie di locanda, una locanda che si chiama Da Teodora, che è gestita da Teodora e Ferdinando a Sequals, provincia di Pordenone, con un tizio, Ferdinando, che mi sembra un tizio interessante, perché è uno che fa l'imitazione di Mussolini. Io voglio capire gli ultimi, magari non sono nemmeno pochi, gli ultimi mussoliniani d'Italia dove sono? Proviamo un po'. Pronto? Sì, signor Ferdinando? Sì? Sì, buonasera, qui Radio 24, mi sente? Sì, la sento, mi dica tutto. Come sta? Siamo sempre in attacco noi. Sempre all'attacco, stiamo cercando gli ultimi mussoliniani d'Italia noi. E qua vengono un po' stasera, per come dire, 20 persone, sono tutti che vengono da Padova, da Vicenza, da... E che vengono a fare lì? Facciamo i discorsi di Mussolini, no? Ma pure stasera fai i discorsi di Mussolini? E io faccio sempre i discorsi di Mussolini. Ma dica un po', me li fa un attimo a me, un attimo, come fanno? Come fanno? Ho un microfono dell'epoca, buttiamo sul disco e facciamo... E io faccio l'imitazione del Duce. Ah, ma scusi un attimo, non fa la voce di Mussolini lei? Anche delle volte sì, delle volte no, dipende. E come fa la voce di Mussolini? Me la faccia un po', vediamo un po' se è vera. Adesso il telefono. Guarda che sono in mezzo con un sacco di gente. Me la faccia un attimo, su. Mi arrestano dopo tutti. Ma qua. Che arrestano? Ormai queste cose qui, si figuri. Com'è che... Lorina, Radio 24. Gli ultimi fascisti sta cercando. Ha detto che sta cercando gli ultimi fascisti. Scusi, Ferdinando, lei è fascista? Qua purtroppo bisognerebbe essere sempre... Io sono convinto che ci vuole uno con i coglioni che governi, non quei quattro farabutti che abbiamo lì al governo. Cioè, i delinquenti. Ci vorrebbe uno come Mussolini, diciamo la verità. Ci vorrebbe uno peggio di Mussolini, guarda. Mussolini era troppo buono, sai, ha fatto tante riforme e tante cose. Hanno solo criticato quei quattro comunisti di merda lì, partigiani, che hanno fatto solo danni e basta. Vabbè, scusi, però era anche un dittatore il signor Mussolini, o no? Bah, io, dittatura, lì in quel momento lì, la situazione e la storia richiedeva qualcosa di forte, perché diciamo. Perché avevamo la monarchia, venivamo dalla monarchia. Venivamo da uno sbando totale, avevamo finito una prima guerra mondiale, che avevamo 6 milioni di invalidi, non c'era niente, ha cominciato a dare qualche cosa, a dare una speranza a questo popolo qua. Però che scusi, veramente... Ferdinando, ma ha ammazzato un po' di gente pure il signor Mussolini, non era chi proprio... Chi ha ammazzato? Gli oppositori politici, c'era gente al confino, insomma non c'era... Raccontami una cosa, adesso cosa hanno? Stanno ammazzando la gente lo stesso. La chiamano democrazia questa, guarda quanta gente che ammazzano, ma ammazzano anche moralmente, stanno ammazzando i pensionati con la minima, non li stanno ammazzando? I pensionati con 500 euro al mese li stanno ammazzando o no? Però scusi Ferdinando, mi faccia un po' Mussolini, aspetta, glielo faccio sentire io come faceva Mussolini, l'abbiamo preso dal web che ormai circola in maniera pazzesca, aspetti. La parola d'ordine è una sola. Com'è che fa poi? Categorica e impegnativa per tutti. Poi? Già da sola. Vabbè. Dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! E vinceremo, vai. Beh. Dai, ti saluto, vai, stammi bene. Amico mio, aspetti un attimo, ti passo una persona. Aspetta, Ferdinando, vieni aspetta. Vieni a trovarmi. Ma sicuramente, aspetta che ti passo una persona, aspetta. Rai 3 che mi sta cercando. Aspetta, Ferdinando, aspetta un attimo, Scusi, signor fascista? Sì. Sono Parenzo. Sì, sono io, presente. Fascisti, ecco, sono qua. Se mi dà l'indirizzo, facciamo una bella repata stasera, così vi arrestiamo tutti per apologia. A me non me ne frega un cazzo, non abbiamo paura. Tutte le forze dell'ordine sono tutte con noi. Ma quale problema? Non abbiamo problema. Arrestiamo è una porcheria. Comunisti. È una porcheria quello che lei fa. Porcheria. Vabbè, io invece penso di no. E io penso che questa sera mandiamo subito una bella retata. Bene, bravi. Ma lascia perdere. Viva Duce, prego. Ma vada a fare il culo lei e il Duce e tutti i suoi cosiddetti camerati. Ma questo qua si divertono, scusi, lascia perdere. Ma giusto? Uno si può divertire così? Ferdinando, lei si diverte o no a fare queste cose? Per forza che ci divertiamo. Ma lei si diverte così? Sì. Lei si diverte così a fare le adunate fasciste. Scusi, però ha fatto le leggi razziali Mussolini, gli ebrei, le cose. Guardi, sei una cosa, ognuno la pensa a modo suo. Ma ognuno un corno. Ma cosa ognuno la pensa a modo suo? Scusi. Ecco, bravi. Le leggi razziali. Saluto, statemi bene. Le leggi razziali andavano bene, le leggi razziali? Guardi, io le leggi razziali, e ho pur detto, era il periodo e va vissuto quel periodo. È chiaro che adesso non stiamo facendo le leggi razziali lo stesso. Scusi. Meno male che c'erano i partigiani, altrimenti in mano vostra, cazzo, chissà che fine facevamo. Bravi, grazie, complimenti, arrivederci. Vada a quel paese. Ma non ho capito, che vorresti fare con questo qua? Arrestarlo? Ecco, questo qui adesso spero che qualcuno che ha sentito la trasmissione, magari qualche poliziotto che è in zona, qualche ma carabiniere. Perché? Ma questi fanno le cene in un'osteria vicino a Pordenone e questo qua canta qualche canzone fascista, fa i discorsi di Mussolini, ma chi se ne frega? A parte che uno che si diverte così, perché ognuno beh, si ma fa i discorsi di Mussolini, ma pazienza. Uno che si proclama su. Apertamente fascista. Vabbè, pazienza, ma nessuno non si può proclamare fascista. Si proclama fascista, chi se ne frega? Sediziosa con ma altri che adunata, ma sono quattro gatti che vanno al ristorante a magnà, dai, su. Altri cialtroni neofascisti, ma come minimo una bella retata risolviamo il problema. Ma gli passa la voglia, vedrai. Ma retata per fare cosa? Ma non è apologia di fascismo questo? Neanche questo? Ma dai, su. Ma neanche questo? Allora andiamo a Milano, Alberto, vai, tutti ascoltatori da qui alla fine, vai Alberto. Buonasera, ieri ho ascoltato con molto interesse la sessuologa, poi casualmente ieri sera mi chiama un amico che vende pubblicità su internet e mi dice: vieni, devo andare a fare un contratto da un club scambisti, tra l'altro vicino al ristorante dove lei mi sembra che sì, vada a mangiare. Si dice sempre così però, si dice sempre così. No, no, io sono andato con un amico, non ho avuto il coraggio, ho preso la palla al balzo, sono andato, mi ha meravigliato molto quando sono sceso sotto dal bar ed era la serata dedicata ai soci della categoria Anaconda e ho capito a che cosa si riferiva. Abbiamo capito anche noi, sì. Verso le 11, mezzanotte, si è cominciato a riempire, una ventina di coppie, molti singoli, e poi sono arrivati gli Anaconda. Contrariamente, o forse vanno tutte lì le signore che non soffrono di vaginite e di dolori all'utero, però io ho visto che tutte le signore erano molto, molto interessate ai soci Anaconda. Vabbè, certamente forse oggi qualcuna avrà la cistite, forse qualcuna camminerà un po' con difficoltà, ma erano, apprezzavano molto molto molto. Però scusa amico mio, ma se era una serata fatta apposta, se era una serata fatta apposta per quella roba lì, forse i soci lo sapevano, beh, ma non è che te lo devo dire io, no, è chiaro, l'unico che non lo sapeva. Senti, io ieri sera la ginecologa che era in collegamento con noi ha detto chiaramente una cosa, che piccolo non è che ha detto è per forza bello, può essere bello, anzi, no, è sicuramente è stata meglio. Consolatoria è stata, anche per te è stata consolatoria. Beh, insomma, diciamo che non sei super dotato. Diciamo 13 a 17 sono nella media, vabbè, per cui dice... mi ha consolato molto, anche se ormai è troppo tardi, perché a 60 anni chi ha avuto, chi ha dato. A 60 anni si tromba la grande, che cazzo stai a dire? Se c'è il nuovo, se no non è che si tromba la grande. Eh beh, se c'è il nuovo, tutto che dipende dal tipo di vita che si fa, no? Se non con tua moglie, dici, no? Sì, beh, io ho la sfortuna di avere una moglie 20 anni più giovane, per cui sono molto triste a volte. Perché? Perché? Perché è stato bello all'inizio, poi quando hai 60 e hai una moglie di 40, lei va a cercare altrove, diciamo, no? Io spero di no, però non voglio saperlo, perché per l'amor di Dio non voglio saperlo. Ma, ma arrenditi, ho pensato alla sessuologa ieri sera. Bene, bene, ottimo, vedi, che, servizio pubblico. I prezzi erano un po' altini, ma insomma, guarda che si sta ascoltando alla radio. Sì. Dille che stai tornando a casa, avvisa. No, ma io gliel'ho detto. Vabbè. Non sono mica andato di nascosto a 60 anni in mezzo a fare queste robe. No, avvisa, dice: guarda, sto tornando a casa. So, Va bene, ma ciao. Alberto, provincia d'Imperia, vai. Pronto, Luciani, è una vita che ti ascolto e finalmente sono riuscito a prendere. Alberto, però togli l'auricolare, dai, amico mio, dai. Come l'auricolare? Vai, viva voce, è un viva voce galattico. Ma viva voce galattico un cazzo, non si sente una mazza, dai, togli viva voce, prendi sto telefono in mano. Ragazzi, qui abbiamo dei limiti, e la radio non è che è a casa vostra, si deve sentire la telefonata se volete dire delle cose, altrimenti se non si sente una mazza non si capisce, dai. Senti, allora, io ex carabiniere, tanti amici carabinieri, non è vero che possono sparare ovunque, anzi, per un carabiniere se c'è una cosa che fa paura è sparare a qualcuno, perché alla fine è un lavoro... E anche per legittima difesa, anche per intervenire, se tu ammazzi qualcuno, delinquente che sia, la tua vita è distrutta, non è mai più finita una cosa del genere. Per cui non è così, purtroppo non è ma così. Ma non sto dicendo che è facile sparare, sicuramente in Italia ci sono una serie di cose che impediscono a un poliziotto o un carabiniere di essere tranquillo nell'utilizzare un'arma, perché dopo ti si può ritorcere contro, no? Magari tu che hai più esperienza, essendo un ex carabiniere, me ne puoi dare atto, quello è sicuro. Dopodiché se si vede un caso, se qualcuno avesse visto un caso come quello di Milano, io credo che un poliziotto, un carabiniere sarebbe intervenuto magari anche sparando a questo qua in fuga col macete, ma non c'è dubbio su questo, no? Ma poi che vuol dire sparare a vista? Cioè, quando uno dice sparare a vista, concretamente che vuol dire? Niente. Sparare a vista no, però tu capisci questo, che nel caso specifico di questa storia del macete, la differenza d'arma ti porta in carcere per 10 anni. Se un carabiniere sparava a quell'uomo col macete, che sia italiano, rumeno, quello che vuoi, non cambia nulla, la differenza d'arma ti porta in carcere per 10 anni. E se tagliargli un braccio gli tagliava la testa. Sì, la differenza d'arma che vuol dire? Cioè, che secondo te se uno sparava, alla fine ci rimetteva più lui che quello là? Sì, ragazzo, però cerca di avvicinarti a questo telefono, amico mio, su. Alberto, dai. Alberto? Niente, vabbè. Angelo Caserta, vai, Angelo. Vai, Angelo. Angelo? Sì. Mamma mia, ragazzi, ma perché vi è presa questa fissazione di stare con l'auricolare o col viva voce? Dai, Angelo! Perché sennò si ammalano. Ho capito, dai, forza, Angelo. Senti, io volevo intervenire. Niente, Antonio dalla provincia di Lucca, dai. Sì, io finalmente sentivo all'inizio della trasmissione Rossi che parlava di treni. Questo è il degrado vero. Il signor Rossi, presidente della provincia della regione Toscana, sì. Della regione Toscana, si doveva presentare e per la quinta volta non si è presentato a testimoniare a Lucca per la strage di Viareggio. Questo è degrado, capito? Ma non ha neanche mandato l'avvocato, ha mandato il sostituto. Vabbè, dell'avvocato. Ma adesso che cosa non sapeva manco dov'era. Io non ho capito che non cosa sapeva neanche il perché. Sì, ho capito che cosa è accusato di, che cosa non mi ricordo. Lui era siccome era presidente. Quando è successa la strage doveva venire a testimoniare. E va bene, ragazzi, però adesso... Ma lui si dovrebbe vergognare perché... Vabbè, ma chi se ne frega, adesso io non so i dettagli. Ma poi sono 32 morti sono stati. Vabbè, ho capito, benissimo, se verrà a testimoniare, d'accordo. Lo aspettava perché ha visto morire e bruciati i due figli. Ma di cosa si sta parlando? Va bene, Antonio. Walter, Roma, vai. Walter. Ragazzi, però, dai, tu mettetemi le telefonate, dai, su, e quelle buone, però. Dario, Milano, dai, forza. Mi senti? Sì, mi dai. Senti? Sì, chi è? Walter. Vai, Walter, dimmi, su. Ecco, no, ti stavo dicendo, visto che già avete fatto sentire il Papa prima che parlava di Azzolini, ti volevo chiedere, ho letto oggi una notizia su Twitter, poi magari informatevi se è vera, perché che il Cardinale Re, che sarebbe il Presidente della Commissione Pontificia per l'America Latina, ha detto, in riferimento a una storia successa 5 anni fa, di una bambina di 9 anni in Brasile che era stata violentata dal patrigno e era rimasta incinta, chiaramente la mamma l'ha fatta abortire e hanno scomunicato la mamma e i medici e il patrigno l'ha messa incinta non è stato scomunicato e Monsignor Re e il Cardinale Re. Allora che vuoi dire con questa perché cosa? Lui ha detto è più grave un aborto che praticamente uno stupro di un minore. No, ma per me quella roba lì è barbarie assoluta. Dire che l'aborto abortire è più grave di uno stupro è una barbarie. Certo. A parte che io sono a favore dell'aborto in ogni caso, sì, per libera appunto, scelta. Se uno rimane incinta e poi ci ripensa, può tranquillamente, anche se tu vuoi fare un bambino a un certo punto e poi ci ripensi, hai il diritto di abortire entro i termini legali. Ma lasciamo perdere questo. Ma pensare, come ha detto l'altro giorno un tizio che era nostro ospite, che se una persona. Se una persona viene stuprata deve per forza tenere il figlio, mamma, in nome del fatto che non si può uccidere una vita, barbarie. È una barbarie assoluta. E ci sentiamo quando è? Lunedì alle 18:30. Ciao, vi bacio a tutte e due, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma Parenzo, lo pagate voi per stare in trasmissione? Radio 24. La passione si sente.